Buongiorno e benvenuti alla lezione di Halakha di Kollel Torah a Roma. Siamo molto fieri di studiare la Torah tutti i giorni e di farlo in buona compagnia, sia chi è presente qui che chi ci seguirà poi online. Oggi facciamo, come sempre giovedì, studiamo la Halakha, però in modo straordinario studiamo la Halakha di Hanukkah, visto che sabato sera Mozè Shabbat inizia la festa di Hanukkah. Allora, qual è la data della festa di Hanukkah? La data dell'inizio di Hanukkah è sempre il 25 di Kislev, che appunto questo anno capiterà. Il 25 di Kislev cade Shabbat a sera, Mozè Shabbat, all'uscita dello Shabbat. Quindi il primo giorno di Hanukkah è domenica, sabato sera è domenica. Quella sarà la prima accensione della candela di Hanukkah, la prima, e l'ultima. Le otto candele si accenderanno il successivo sabato sera, e Hanukkah non finisce sabato sera. Sabato sera inizia l'ultimo giorno di Hanukkah e conclude domenica con il calare della notte. Durante il periodo del secondo Bet HaMikdash, i governatori, i capi del regime greco-siriano hanno decretato, hanno fatto dei decreti contro l'osservanza di diversi aspetti base dell'ebraismo e hanno voluto far sì che gli ebrei si scordino le mitzvot della Torah. Sono anche entrati dentro il Beit HaMikdash e l'hanno fatto in qualche maniera trasformare quasi in un luogo di culto pagano, profanando tutto ciò che era sacro per noi. Ed era un periodo di grande difficoltà e di sofferenza, anche perché il problema non era solo esterno, ma appunto, come si accennava qui prima, il problema era anche interno, nel senso che lo spirito di ellenismo, che era la moderna all'epoca, era stato sposato da moltissimi ebrei che si chiamavano ellenisti. E quindi la lotta era anche interna, nel senso la lotta per mantenere la tradizione ebraica viva era non solamente contro una minaccia esterna, ma anche contro una minaccia interna, una sorta addirittura, diciamo, di guerra civile. Tutti sanno la storia, solo per ricapitolare, c'era un gruppo di persone che si chiamano correntemente i Maccabei o i Hashmonei, che venivano da una famiglia di Kohanim e di Kohanim Gdolim, che iniziarono a lottare contro quel regime e contro ogni aspettativa. Alla fine sono riusciti a riacquisire sia un'indipendenza politica, che per tanti anni non c'era stata, in Eretz Israele, in quella zona, Yerushalayim, inaugurarono il Beit HaMikdash, riconsacrarono tutto quanto. Questo fu già un grandissimo miracolo, perché diciamo l'altra parte, il nemico, il greco-siriano, era in realtà un impero, e qui c'era un piccolo gruppo di persone, deboli, minori, eccetera. E questo è un aspetto della festa di Hanukkah, che noi ringraziamo a Kadosh Baruch Hu per il miracolo della vittoria militare. Il secondo aspetto della festa di Hanukkah, che si osserva attraverso l'accensione della menorah, cioè della Hanukkiah, del candelabro di Hanukkah, è quello che ricorda il miracolo dell'olio, che in breve, come tutti sapete, è i Kohanim volevano accendere nuovamente la menorah nel Beit HaMikdash con un olio che non è stato reso impuro, anche se avessero voluto, per la halakha, per la regola, avrebbero potuto accendere la menorah del Beit HaMikdash con l'olio impuro. Perché? Perché c'è una regola secondo la quale tuma hutera betzibur o tuma hudcha betzibur, cioè quando c'è un pubblico, che la maggioranza del pubblico è in uno stato di impurità, allora la funzione del Beit HaMikdash va avanti anche in uno stato di impurità. Visto che la maggioranza del pubblico era in uno stato di impurità, data tutta la guerra e tutte le situazioni che stavano vivendo, non c'era possibilità che tutti si fossero resi, avessero fatto il processo di purificazione che richiede una settimana almeno di tempo, eccetera, e quindi sarebbe stato permesso alachicamente, ma non hanno voluto farlo, nel senso hanno cercato comunque di poter rientrare nella mitzvah nella maniera ideale, nella maniera più, come quello che dicevamo ieri, non era chovah ma era mitzvah, perfetto, era proprio per la mitzvah nel senso, ecco esattamente. E il miracolo è stato che hanno appunto trovato un po' d'olio che era rimasto con il sigillo, quindi era chiaro che non era stato reso impuro, e il miracolo è stato prima il ritrovarlo e anche il fatto che il tempo necessario per ottenere dell'olio nuovo, cioè pressato appositamente per la menorah, che è tempo 8 giorni, durante tutto questo tempo è stato sufficiente quel poco d'olio per rimanere acceso nella menorah. E questo noi è il secondo miracolo di Hanukkah che noi ricordiamo con l'accensione della Hanukkah. Hanukkah, i maestri hanno istituito in quella generazione di festeggiare questi 8 giorni, giorni di lode, in cui si ringrazia Kadosh Baruch Hu, in particolare attraverso la tefilah di Hallel, di ringraziamento che noi recitiamo tutte le mattine di Hanukkah, subito dopo l'Amidah, e con l'accensione appunto delle Hanukkiot, le sere di Hanukkah, per le Farsem Hannes, per pubblicizzare il miracolo, per ringraziare anche in questa maniera, e questi giorni si chiamano Hanukkah. Perché si chiamano Hanukkah? Ci sono diverse spiegazioni. Il senso più semplice che dicono i maestri, che spiegano anche il brano del Talmud, che è nel trattato di Shabbat, che parla della festa di Hanukkah, che Hanukkah viene dalla parola, dal verbo lechanech, o dal termine chinuch, cioè consacrazione, inaugurazione. E perché? Perché, come dicevamo, appunto, è stato inaugurato di nuovo l'altare, cioè il servizio del Bet HaMikdash, in quei giorni, con dei sacrifici di offerta di ringraziamento, korban todah, nedavah, dicevamo anche ieri, no? Offerte volontarie per ringraziare, per lodare Hashem, durante tutta quella settimana, tutti quei 8 giorni, a parte il miracolo dell'olio, ma durante tutto quel tempo stavano ancora ristrutturando, rimettendo a posto, riconsacrando, rinaugurando tutte le funzioni e tutti gli aspetti del Bet HaMikdash. Hanno rifatto, sbiancato le mura, hanno rifatto il Mizbeach perché era stato profanato, non si poteva usare, hanno rifatto un nuovo Mizbeach, eccetera. Nella parola Hanukkah ci sono anche delle allusioni, come per esempio Hanu Kafei. Dividiamo la parola Hanukkah in due, abbiamo un'allusione. Hanu, si sono riposati, hanno cessato, diciamo, il miracolo della guerra, la vittoria. Kafei, il 25 del mese. Questa è un'allusione. Un'altra allusione che troviamo è che c'è nel Talmud una discussione tra le due case che discutono spesso, Bet Shammai e Bet Hillel, riguardo all'accensione della Hanukkah. Allora, bisogna innanzitutto sapere che l'obbligo, chovah, l'obbligo dell'accensione della Hanukkah è di accendere ogni sera un lume. Un lume, una candela. Ogni sera una candela. Ok? La Gemara dice, ieri abbiamo parlato anche di Hidur, abbellimento della mitzvah. Per abbellire la mitzvah, allora si accende ogni sera una candela per ogni persona presente nella casa. Se sono 3 persone, ogni sera 3 candele. Poi la Gemara dice, Mehadrin min ha-mehadrin, per abbellire ancora di più l'abbellimento, vuol dire c'è il livello base, c'è il livello di abbellimento, c'è terzo livello di abbellimento, ancora maggiore, è che si fa la prima sera 1, la seconda sera 2, la terza sera 3. Questa è l'opinione di Bet Hillel. Su questa terzo livello di bellezza della mitzvah, Bet Shammai dissenta da Bet Hillel e dice no. Sono d'accordo che esiste il terzo livello, ma il terzo livello funziona in un'altra maniera. La prima sera 8 candele, la seconda sera 7 e si scende. E la Gemara parla di perché loro discutono su questa cosa. La parola Hanukkah poi diventa anche un'allusione carina a come poi è stata stabilita l'Halakha, perché ovviamente vediamo che l'Halakha è stata stabilita come Bet Hillel, e quindi che si va crescendo a salire da 1 a 2 eccetera. E la parola Hanukkah diventa un acronimo, quindi la prima lettera Chet, Chet vuol dire numero 8, Chet Nerot, la lettera Nun, 8 candele, Vav Vehalakha, e la Halakha segue, che Bet Hillel, e la Halakha segue Bet Hillel. La cosa... Nun le candele Nerot... Sì, Chet Nerot, Ve Halakha, Kebet Hillel. La cosa bella di Hanukkah è che non c'è nessuno nel popolo ebraico ormai da sempre che non lo fa nella migliore delle maniere. Vuol dire, la base è una candela ogni sera, ma nessuno fa questo. Questo è un esempio di una mitzvah che si fa al massimo delle maniere, come se quello fosse il modo base di farlo. Quindi questa è una cosa molto bella di Hanukkah. L'Halakha ci insegna che bisogna fare attenzione appunto a accendere a fare la mitzvah dell'accensione della Hanukkah. È una mitzvah molto piena di affetto, di calore, di amore, di ringraziamento verso HaKadosh Baruch Hu. E i maestri dicono nel trattato di Shabbat che chi mette in atto questa mitzvah così come si deve, nella migliore delle maniere, merita di avere figli Talmidei Chachamim, che i suoi figli saranno studiosi di Torah, Talmidei Chachamim, perché si appoggiano a un versetto che è scritto nel Mishlei, nel libro dei Proverbi, che dice chi ner mitzvah ve Torah or, che la mitzvah è una candela e la Torah è la luce, come se la luce delle candele poi allude a questo, no? Porta alla luce della Torah. L'usanza dei sefarditi, di quasi tutti i sefarditi, è che in ogni casa si accende una Hanukkah, il capo famiglia accende una Hanukkah e fa uscire l'obbligo degli altri. L'usanza degli Ashkenaziti è che anche diversi membri della famiglia accendono la propria Hanukkah, normalmente i maschi, o se si tratta di bambini piccoli anche femmine, perché per farli educare nella mitzvah. Quindi questo è in generale la differenza tra Ashkenaziti e Sefarditi, ma ci possono essere variazioni in comunità specifiche. Ora, se vogliamo entrare un pochino nello specifico delle halachot di Hanukkah, allora parliamo prima dell'accensione delle candele di Hanukkah, comunque dei lumi di Hanukkah. Quando si accende la Hanukkah, bisogna fare attenzione che ci sia la possibilità che rimanga accesa la luce della Hanukkah, il lume, o l'olio, o la candela che sia, per 30 minuti come minimo di tempo di durata dell'accensione. Quando è invece venerdì, siccome Hanukkah dura 8 giorni, c'è sempre un venerdì di mezzo, e venerdì arriva anche lo Shabbat, e noi dobbiamo anticipare l'accensione della Hanukkah rispetto all'accensione delle candele dello Shabbat, che si fa 18 minuti prima del tramonto, e le candele della Hanukkah devono essere accesi fino a notte, allora è chiaro che in quella situazione di venerdì non basta mezz'ora, servono delle candele più grandi o dell'olio, del volume di olio maggiore, per poter rientrare nella mitzvah, quando in particolare venerdì. Per mezz'ora, 18 minuti prima circa, sì. Potrebbe essere un po' di meno, perché dipende l'orario, diciamo il primo orario di Zeta Kochavim, non devi vedere l'orario dell'uscita dello Shabbat, anche un po' prima, sì, un po' meno. Quando noi accendiamo le candele la prima sera, qual è la modalità di accensione? Sicuramente tutti lo sanno, però per ricapitolare, noi mettiamo la prima candela o il primo lume sulla parte, sull'estremo destro della Hanukkah, il destro, quello viene acceso. E ovviamente abbiamo uno shamash, cioè una candela che ha la funzione di accendere le altre, e questo shamash lo prendiamo in mano, recitiamo la berakah e accendiamo quella prima candela. La seconda sera noi mettiamo accanto a quella prima candela di destra un'altra alla sua sinistra, quindi sempre sulla parte destra della Hanukkah, ma l'accensione avviene l'accensione avviene al contrario, cioè prima quella nuova. Quella nuova, perfetto, quella che è più verso sinistra, prima quella, sempre prima la nuova e poi quelle già accese in precedenza, in ordine chiaramente, andando da sinistra verso la destra. Questo per dare importanza, diciamo la seconda sera, la terza sera, al nuovo arrivo della nuova candela, del miracolo maggiore che per un altro giorno è rimasto acceso nel Beit HaMikdash. Nella Gemara, appunto nel Shabbat, nel Trattato Shabbat in cui si parla della mitzvah della Hanukkah, c'è una discussione tra i maestri se la mitzvah della Hanukkah è l'accensione oppure che rimanga acceso. Che vuol dire? Vuol dire che se io accendo e poi per il vento o qualsiasi altro motivo si spegne, devo riaccenderlo perché deve rimanere acceso, oppure la mitzvah l'ho fatta e non sono obbligato a riaccendere. Allora la Gemara conclude che le parole che la Gemara usa sono hadlaka o sa mitzvah, è l'accensione che fa la mitzvah. Quindi kavta, se dovesse essersi spenta la Hanukkah, e inosa kukla, non se ne deve più occupare, cioè non è obbligato a riaccenderla. Sì, perché se Shabbat entra in mezzo... Non dico Shabbat, anche un altro giorno. Può succedere che diciamo non puoi manco... Questo è scontato. Se Shabbat è sicuro che non si può. Noi stiamo parlando di giorni che non sono Shabbat. Cioè noi dobbiamo avere le condizioni predisposte che la candela sia accesa e possa rimanere accesa per quel tempo. Però poi se si spegne... Allora in quel momento non siamo obbligati a riaccenderli di nuovo. Chiaramente, se abbiamo la possibilità, è bene comunque riaccenderli, ovviamente senza berakha, però se tu stai lì e puoi riaccendere, lo riaccendi. Ma come obbligo non c'è questo obbligo. In particolare se... Ok. Però se io ho acceso le candele di Hanukkah e non c'erano le condizioni che rimangano accese per mezz'ora, per esempio se c'era solo un goccettino d'olio o se li ho accesi proprio davanti al vento da priori, cioè e quindi non c'era la condizione che rimanga accesa, allora l'accensione stessa non va bene e va riacceso. Ma nonostante che va riacceso proprio, diciamo, per halakha, per obbligo, comunque non si ripete la berakha anche in questo caso. Ok? Un'altra regola che riguarda i lumi di Hanukkah, che noi accendiamo sulla Hanukkah, è come recitiamo anche cantiamo nel Hanerot Halalu, che le candele, la luce di Hanukkah, in qualche maniera, visto che ci ricorda la luce della menorah del Beit HaMikdash, vi ricordate che abbiamo parlato della Me'ilah? Me'ilah vuol dire abusare di un bene che appartiene al Beit HaMikdash per un uso personale, non si può. Allora, non è la stessa cosa assolutamente, però una cosa simile la applichiamo alle candele di Hanukkah, cioè la luce delle candele di Hanukkah non dobbiamo usufruirne. Quindi sempre una luce accesa vicino. Esattamente. Possono illuminare. Esatto. Bravo, detto, è scritto nella Nerot Halalu, bravissimo. Non abbiamo il permesso di usare, usufruire di quella luce, e la Lirotan Bilvad, solamente di vederle. E per questo non è possibile, non è permesso leggere un libro alla luce delle candele o contare dei soldi, perché molti di voi ricevete tante soldi di regalo al Hanukkah, però non si possono contare alla luce della Hanukkah. Sì. Col buio. È sbagliato accenderla col buio, sì. E allora adesso ha visto perché vieni al Kollel Torah? Si imparano le cose. Ma non si accende al buio. Sì. Che doveva mettere davanti alla finestra. Aspetta, adesso arriviamo a questo. Vale pure per le candele dello Shabbat. No. Questa cosa, ascoltate bene, questo è il contrario delle candele dello Shabbat. Il motivo delle candele dello Shabbat è proprio per illuminare la casa, che la famiglia possa stare in armonia per la luce delle candele. È il contrario. Invece la Hanukkah serve un'altra luce per la casa, e anche questo è il motivo per cui noi mettiamo lo shamash. In teoria tu potresti prendere un fiammifero, o come diciamo a Roma, un cerino, accendi la Hanukkah e spegni il fiammifero perché hai bisogno dello shamash. E anche per questo, è come dire, se dovessimo usufruire anche in maniera non voluta, allora c'è la copertura, diciamo, come dice Alberto, dello shamash, che in realtà è quella la luce di cui usufruiamo, non la luce direttamente della Hanukkah. Questo è valido, questa regola è valida quando siamo nel tempo obbligo, cioè entro la prima mezz'ora. Se poi tu hai messo una boccettina d'olio che rimane acceso 4 ore, dopo un'ora, dopo la mezz'ora che è passata, puoi usufruire di quella luce. Ma si può dire, okay? Fare meglio non usufruirne lo stesso, può applicare il principio per abbellire anche dopo, non usufruire finché è accesa? Non lo so. No. Si usa in moltissime comunità, ed è scritto e riportato nello Shulchan Aruch, che le donne in particolare, non gli uomini ma le donne, non fanno delle melachot, cioè quello che di Shabbat non si farebbe, come cucinare, cucire, stirare, qualcosa che è melachah, durante la Hanukkah, nei momenti in cui la Hanukkah è accesa. Diciamo per quella mezz'ora. Perché? Uno dei motivi è perché una grande parte del miracolo di Hanukkah, nel caso della vittoria militare, è attribuita al sacrificio di alcune donne. In particolare c'è la storia di Judith, che ha ucciso un generale greco importantissimo, che ha fatto sì che molti soldati scappino via, e ha portato ad aiutare la campagna militare. E potete documentarvi poi dopo su tutta la storia, però c'è scritto «She al Yadanna Sehanes», proprio attraverso delle donne venne poi a cadere il miracolo, e quindi lo osservano quel momento dell'accensione della Hanukkah, in un certo senso, ancora di più rispetto agli uomini. Torniamo un attimino a parlare del venerdì. Se è possibile, quando noi dobbiamo accendere la Hanukkah di venerdì, sarebbe meglio prima fare Mincha. Allora, in alcune comunità cosa si fa? Si fa Mincha al Tempio presto, prima dell'orario normale in cui si farebbe Mincha normalmente venerdì. E si viene al Tempio per fare Mincha, poi si torna a casa per accendere la Hanukkah, e poi si va al Tempio per Kabbalah Shabbat Arvit. Perché questo? Perché visto che la preghiera di Mincha corrisponde al sacrificio quotidiano pomeridiano, Korban Tamid Shel Bena Arbaim, il Korban del pomeriggio, che è quello che nel Bet HaMikdash precedeva l'accensione della Menorah, e visto che la Hanukkah ricorda l'accensione della Menorah nel Bet HaMikdash, l'ordine giusto sarebbe Mincha e poi Hanukkah. Ok? E per questo appunto, come dicevo, molti usano di fare Mincha prima, più presto il venerdì, e poi tornano a casa, si preparano per Shabbat, accendono la Hanukkah e poi tornano al Tempio per Arvit. Però se è difficile ricreare un minyan prima e poi dopo, come qui magari non sarebbe semplice, qui da noi, e allora in quel caso secondo Rav Ovadia Yosef, bisogna prima accendere la Hanukkiah a casa e poi arrivare, venire al Tempio per Mincha. In altre parole, è meglio pregare Mincha con un Minyan che rispetto a seguire l'ordine di accensione dopo Mincha. Quindi è meglio, si fa un'eccezione in altre parole, visto l'importanza di pregare con un Minyan, con un pubblico, invece di pregare da solo, perché pregare da solo a casa tutti possono fare, prego alle due, poi accendo la Hanukkiah, poi vengo al Tempio. Lui dice no, è meglio accendere la Hanukkiah e andare al Tempio a pregare Mincha con Minyan come tutte le settimane, a meno che è possibile fare entrambe le cose, cioè il Minyan è presto di Mincha e poi la Hanukkiah e poi... Però in molti casi questo è difficile fare, quindi è meglio fare in questa maniera qui. È meglio che la faccia l'uomo o la donna? L'uomo. Scusa, ma sì? È di giorno normale? Tanto mi capo di venire. Quando? La sera. Si può accendere sempre la sera? Sì, Di giorno normale sì, si fa normalmente. Non, diciamo, il problema del venerdì è la tempistica che entra a Shabbat, è lì che crea il problema. Il giorno normale prima di Arvit. Esatto, tra Mincha e Arvit. Ma la donna fa la preghiera di da sola, tanto, in Hanukkah con i bambini, prima, senza l'uomo? Prima. Se non c'è l'uomo? Sì, sì, certo. La puoi fare prima di sera, sì, prima del tramonto. Sì, certo. Perché tanto no. Giusto. Oppure... Sì? Ti chiedevamo? Sì. Se si può passare lo shamash ai componenti della famiglia e ognuno accende una lucetta, una candela? Dopo che il però è acceso il primo lume, è uscito dopo. Il primo poi dopo. Sì. Abbassa quello del giorno. Diciamo che sì. L'obbligo base l'hai fatto accendendo in prima. Quello nuovo? Sì. Non voglio dire, perché voglio prima vedere se è scritta questa cosa. No, perché è un'usanza romana. Non solo romana, io da ragazzino... No, tutti! Mia nonna si accendeva sempre. Ah, sì? Cioè, perché io mi ricordo che pure a casa mia prima mio padre accendeva... E uno accende il primo e poi gli altri accendono gli altri. Sì, può capitare. Però non so se è un'usanza. Sì, ma non so se è un'usanza. C'è anche un'altra possibilità. Che ogni bambino può avere una sua Hanukkiah. Sì, infatti, come dicevamo prima. E ogni anche non bambino? Perché comunque che non bambino? Ma prima diceva io per esempio ho letto che è un'usanza però, anche pure romana. Nonostante ciò i bambini possono comunque fare da soli, per educazione. Infatti. Non è un problema. Sì. Io su un altro libro ho letto che... Perché lo Shulchan Aruch dice che anche un bambino... Ognuno dovrebbe avere una Hanukkah. Bravo, cioè lo Shulchan Aruch dice che anche un bambino che è già arrivato all'età di Chinuch... cioè di che si inizia a instradarsi nelle mitzvot, ha la sua propria accensione. Le famiglie numerose, che noi eravamo 11 figli, sì. 11 noi eravamo 10. Più due. Siamo, grazie a Dio, 10. Basta le candele, quello che vendeva le candele. C'è una halakha, signori, c'è una halakha. Solo un secondo. Oh. Riguardo l'alaha che riguarda proprio l'accensione, le berachot dell'accensione della Hanukkiah. Allora, la prima sera, prima di accendere il primo lume, si recitano tre berachot, come sapete. Cioè la berachà di Asherki Deshanu Vemitzotav Vetzivanu Leadlik, dell'accensione della Ner Shel Hanukkah, Ner Hanukkah secondo l'usanza, il lume di Hanukkah. La seconda berachà, che poi si andrà anche questa a ripetere nelle altre sere, è quella dei miracoli, ringraziando Asheassan Nisim Laavotenu Tayamim Ahem in quei tempi, Basmanazè, in queste date. E la terza, che la berachà, come si chiama a Roma, delle cose nuove, Shecheyanu, che recitiamo solamente la prima volta che accendiamo la Hanukkiah, cioè la prima sera, o se non abbiamo avuto modo la prima sera, allora recitiamo la seconda, di accendere, dico. Quindi, altre volte non si dice più Shecheyanu, solamente le prime due berachot. anche se uno ha acceso la Chanukiah la prima sera, ma si è dimenticato di dire Shehiyanu, comunque dice Shehiyanu la seconda sera. Ok? Shehiyanu lo dice solo la prima volta. Esatto. A meno che ti sei dimenticato. No. Cioè, dopo fino alla seconda. Se ti sei scordato la prima. Sì. Sì. Quarto, quando si accende con lo shamash, quando si accende il lume, lo stoppino della candela o dell'olio che sia, e magari potremmo vedere che il fuoco ha preso, e spostiamo subito la fiamma per accendere la prossima, non va bene. Dobbiamo attendere un momento per assicurare che la nuova fiamma sia indipendente, abbia la possibilità di prendere bene. Shalhevet olame eleha, che la fiamma salga di proprio, diciamo letteralmente il senso, che sia ben presa dallo stoppino e ben accesa la fiamma, ben accesa la candela. Questo è scritto anche riguardo la candela dello Shabbat, quando si accende la candela dello Shabbat. Visto che noi diciamo le hadlik, che la mitzvah è l'accensione, allora dobbiamo curare che l'accensione sia fatta nella maniera giusta. Ora, quando noi abbiamo, magari ogni sera o dopo Hanukkah, abbiamo le rimanenze di olio, di stoppini o di cera che rimangono, sono rimaste dall'accensione della Hanukkah, non si possono usare per un altro uso. Siccome sono stati dedicati e usati per la luce della Hanukkah, per l'illuminazione della Hanukkah, non possono essere usati per un'altra cosa, anche se magari rimasta mezza candela, la vuoi usare il prossimo venerdì per le candele dello Shabbat? No, non si può. Quindi, affatto avvenuto, o dopo Hanukkah, o durante, quando si accumulano queste cose, si mettono tutte insieme e si bruciano, perché non siano usate per altre cose, siano rimaste dedicate a quella mitzvah. Quindi delle candele che avanzavano non potevano anche essere usate per Hanukkah dell'anno prossimo? No. O per no, le candele che avanzano, no. Le candele sane. Sì. No, candele sane puoi usare per quello che vuoi. Qui parla di quelle che si spengono. Sto parlando di quelle che hai usato. No, perché fare gli stoppini. Sì, perché se tu usi una Hanukkah con olio, alla fine ti rimane lo stoppino. Non è che si brucia tutto lo stoppino, certo, no? Certo. Ti rimangono gli stoppini, ti rimane un po' d'olio, ti rimane. Cosa fai? Lo devi bruciare tutti insieme. Sì. Dopo l'orario, se sono rimaste quella mezz'ora che devono rimanere per Alaha, e se c'è un'esigenza che devi spegnere, puoi spegnere. Però passato 30 minuti. Passato almeno i 30 minuti, sì. Però in genere che aspetti, sì, se non c'è esigenza, no? Si aspetta, no? Che si spenga. Se non c'è esigenza, si aspetta, perché no? Se uno magari deve uscire o deve muoversi, non può stare lì. Allora innanzitutto quando si accendono i lumi di Hanukkah, non è che uno li accende e poi se ne va dall'altra parte a fare un'altra cosa. No, è mitzvah rimanere vicino alle candele. Se si sta in famiglia, magari ovviamente raccontare qualcosa di Hanukkah, entrare nello spirito, studiare qualcosa che riguarda Hanukkah, eccetera. Però bisogna almeno rimanere lì per quel tempo, quella mezz'ora. Se poi uno deve andare via e non può essere sicuro che vada tutto bene, le può spegnere dopo che siamo rientrati nella mitzvah di quel tempo necessario. Scusa, sì? Vale anche per le candele del Shabbat? Al contrario. Per le candele del Shabbat, qual è la domanda? Se si possono spegnere? No, non si possono spegnere Shabbat. Yes, perché Shabbat è vietato accendere o spegnere una fiamma, quindi comunque anche spostarle, no? Anche non si possono spostare, devono rimanere, prima di Shabbat vanno messe in un posto che possono rimanere. Poi Questo riguarda le candele di Hanukkah. Abbiamo altre cose che riguardano Hanukkah. Per esempio, come dicevamo, durante la tefilah e nella Birkat Amazon abbiamo delle aggiunte. Nella Amidah inseriamo dopo Modim, all'interno della Brachà di Modim, la Brachà di ringraziamento, inseriamo il ringraziamento per i miracoli che sono accaduti di Hanukkah, quindi Alla Nissim, ringraziamo per i miracoli, e c'è il brano che ricapitola un po', racconta un po' la storia dell'evento di Hanukkah, così come facciamo anche a Purim. E inoltre a Hanukkah, non come a Purim, come dicevamo all'inizio, si recita il Hallel, la preghiera di ringraziamento e di lode. E per questo non si mettono i tefilin? Si mettono i tefilin. Sì, sì, sì. Hanukkah si mettono i tefilin. Siccome... Come? Perché non è né Moed né quello Moed. Esattamente. E si dice il Hallel completo con la Berakha. Tachanun. Non si dice Tachanun perché sono giorni festivi. E questa è l'unica volta all'anno che quando è Rosh Chodesh si dice l'Hallel completo. Visto che Rosh Chodesh di Tevet, del prossimo mese, cade sempre durante Hanukkah, normalmente a Rosh Chodesh non si recita l'Hallel completo. Si recita quello che si chiama l'Hallel incompleto, il mezzo Hallel, diciamo, due brani che si saltano. Però quando è Hanukkah, ovviamente, è Rosh Chodesh, ma è Hanukkah e quindi si recita Hallel completo. Durante Hanukkah si legge anche ogni giorno il Sefer. Che cosa si legge sul Sefer nei giorni di Hanukkah? Chi lo sa? Io. Sì? Le offerte che vengono portate per il Mishkan, per la costruzione, i principi che danno... Per l'inaugurazione. Per l'inaugurazione del Mishkan. Esattamente. Sì? Hanukkah Tamizbeach. Si chiama la parasha della Hanukkah Tamizbeach, dell'inaugurazione e la consacrazione dell'altare. Visto che Hanukkah è stato riconsacrato al Mizbeach, allora si richiama questa cosa e si legge proprio quella parasha in cui si racconta l'offerta di ognuno dei capi tribù. Allora, come dicevamo, nella Tefilah e nella Birkat Amazon si recita il brano di Alla Nissim, Alla Nissim, il ringraziamento dei miracoli. In tutte le Tefilot. Ora, se qualcuno durante la Tefilah si è dimenticato di inserire il brano di Alla Nissim, la regola è la seguente. Se non ha ancora concluso Baruch Atah Hashem, che lì si conclude la Berachah dopo Modim, Baruch Atah Hashem, Hatov Shimcha Ulecha Nae Leodot. Se ancora non ha detto il nome di Hashem, Baruch Atah, forse ha detto Baruch, forse ha detto Atah, non ha ancora detto il nome di Hashem, allora torna indietro nel senso, dice le seguenti parole, Modim Anach Nulach, solo queste tre parole, poi Alla Nissim ve Alla Purkan e continua a recitare Alla Nissim, conclude e torna al punto dove stava e conclude la Berachah. Se invece ha già detto il nome di Hashem, ha già detto Baruch Atah Hashem Atov Shimcha, allora ha perso l'Alla Nissim in quella tefilah e non torna indietro e non ripete la Tefilah, non ripete la Amidah, non è come Yalevi Avo, in cui che normalmente bisogna ripeterlo. Alcuni maestri scrivono nell'Alaha che uno in questo caso che si è dimenticato potrebbe dire Alla Nissim dopo che ha quasi concluso la Amidah, dopo Elokai Netzor, l'ultimo brano della Amidah, prima di dire l'ultimo versetto, prima di Ose Shalom, Yu le razzoni, Mre, Five, Gion, Libili, Fanecha, eccetera. Allora lì può inserire, come dicevamo prima, Modim, Anach, Nulach, Alla Nissim, Vela, Purkan. Alcuni maestri sono di questa opinione, tra gli Acharonim, tra gli ultimi maestri delle recenti generazioni d'Ala. Anche nella Birkat Amazon, appunto, dicevamo, bisogna ricordare Alla Nissim, anche nella Birkat Amazon lo si inserisce nella Brachà del ringraziamento, Ve'alakol, noi ringraziamo per la terra, per tutto, eccetera. Nodè, come il termine modim, noi ringraziamo, inseriamo alla Nissim. Se però ci siamo dimenticati di dire alla Nissim nella posizione, diciamo nel posto giusto della Amidà e della, scusate, della Birkat Amazon, anche lì la regola è simile. Se ancora non abbiamo concluso la Berakha Baruch Atah Hashem, non abbiamo detto ancora il nome di Hashem, che si conclude con Alarez Valamazon, la seconda Berakha, allora torna indietro e di alla Nissim. Lo si è già detto, allora non lo ripete più, non dice più alla Nissim, continua la Birkat Amazon, però alla fine della Birkat Amazon, quando si dice Arachaman, tra le ultime Arachaman, dove normalmente si direbbe Arachaman quello di Shabbat, Uyanchilenu, Liom, Shekolo Shabbat, no? Allora lì si può dire, si inserisce un Arachaman che riguarda l'Anne Nissim, cosa si dice? Si dice così: Arachaman, il misericordioso, cioè Kadosh Baruch Hu, Uya Sei Manu Nissim Veniflaot, che lui potesse fare con noi miracoli e meraviglie, che Moshe Asala Votenu Bayamim Ma'em Bismanaze, e poi tutto il brano Bimei Matatia Ben Yohanan Kohen Gadol, come lo dice lì dopo che quasi ha finito la Birkat Amazon, ma non nel mezzo se non ha preso la posizione giusta. E questo vale per tutti gli 8 giorni di Hanukkah. Bisogna ricordare che l'8° giorno di Hanukkah è il giorno dopo che abbiamo acceso 8 lumi, quindi anche domani, in questo caso la seconda domenica di Hanukkah quest'anno, se uno mangia, fa la Birkat Amazon, quando fa Minchah, prima che fa sera, è sempre Hanukkah, c'è Alla Nissim e le altre regole che riguardano Hanukkah, anche se quella sera non si accendono i lumi, però spesso ci si sbaglia perché si pensa abbiamo finito quando abbiamo acceso le 8 candele, invece no, abbiamo iniziato l'8° giorno in quella occasione e non concluso. Tanti fanno sbagli così, tante, e confusione. Ecco. Allora adesso voi lo sapete, spargete la voce. a questo punto aggiungiamo una halakha e concludiamo. Chi non si trova a casa nel momento in cui si accende la Hanukkah deve accendere la Hanukkah dove si trova, oppure si appoggia al fatto che a casa sua accendono la Hanukkah e lui non la deve accendere? Questa è una domanda di Halakha che lo Shulchan Aruch ne parla. L'Halakha dice che se qualcuno viaggia, ma a casa c'è sua moglie, ci sono membri della famiglia che lì accendono la Hanukkah e si trovano lì e l'accendono, allora lui esce l'obbligo con il fatto che a casa sua si è accesa la Hanukkah. E lui non deve accenderla se sta sull'aereo o sul treno o in un altro posto, anche in albergo. Perché la halakha è ish ubeto, cioè la mitzvah della candela riguarda ciò che si fa nella casa, fa uscire l'obbligo di tutti quelli che diciamo appartengono a quella famiglia, a quella casa. Però non tutti hanno questa usanza. Visto che, come abbiamo detto, secondo gli Ashkenaziti, ogni membro della famiglia accende la Hanukkah, allora è indifferente dove si trova. Se non si trova, se dorme in un altro posto, deve accenderlo in quell'altro posto. E quindi, siccome volevo dirvi la halakha, diciamo, sefardita, negli Yalkut Yosef è scritto che se accendono per te, cioè se fai parte di una famiglia dove in quella casa si accende la Hanukkah, esci l'obbligo della Hanukkah, di quello che si accende a casa tua, e non devi accendere un'altra Hanukkah in un altro luogo. E non solo, secondo lui non puoi accenderla, perché è come se facessi una brachà in più che non serve, perché già è stata fatta per te nella casa. Però chissà se viaggia e a casa non accendono per lui. Ah, lì sì. Ok? O magari tutta la famiglia ha viaggiato, si trovano in un altro posto. No? Lo so. Allora in quel caso, se ci si trova a casa, per esempio, di un altro ebreo, ok? E si paga la permanenza lì. Vuol dire ci troviamo in un bed and breakfast, per esempio, dentro casa di un altro ebreo e partecipiamo alle spese del cibo, della casa, eccetera. Noi dobbiamo anche partecipare alle spese delle candele di Hanukkah. in modo tale che si accende una Hanukkah, però partecipando alle spese della Hanukkah di quella famiglia vale anche per noi che siamo ospiti lì. Cioè una parte dell'olio o quel che sia appartiene anche a noi, no? Abbiamo una parte. Oppure non oppure, invece nel caso in cui ci troviamo la famiglia fuori da casa, ovviamente non presso un'altra famiglia, allora è come se la nostra casa fosse lì, e lì abbiamo l'obbligo di accendere la Hanukkah e fare tutto quanto il... sì? Se tutta la famiglia è fuori. Sì? In un contesto comunque ebraico. Sì? E se nel contesto ebraico si accende la Hanukkah... Che vuol dire un contesto ebraico? È una cosa, tutto un albergo di ebrei? Se ospite di altri, se ospite altri che accendono la Hanukkah. Vabbè, dove vai, sicuramente ospite. Se io ospite a casa di un'altra famiglia. A casa di un'altra che accende, sì, la Hanukkah, giusto? A casa va riacceso. No, scusate. Un'altra cosa. Ah, scusa. No, non è per la serata. Ah, scusate, concludo la registrazione. Ah, sì. Todarabà dell'attenzione, alla prossima Besrat Hashem.